Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Arrivano i primi freddi e li sentiamo nell'aria. Oggi a Milano, giornata terza, stupenda, ma la temperatura bella presenta freddina. Lo zero, esatto. Quindi con i primi freddi che cosa si fa? Si inizia a pensare, io ci ho già cominciato a pensare con i regali, devo dire la verità, anche a Natale. Manca Hai già un mese. Pensato anche al mio? Ni. Perché mi chiama Nicoletta? Manca un mese, passerà in fretta, in vista delle feste c'è chi si muove per cercare appunto i regali, ma c'è anche chi si muove per cercare dell'altro, qualcosa probabilmente di molto più importante, un lavoro, perché a quanto pare nel periodo delle feste le opportunità di lavoro si moltiplicano. Lo conferma una ricerca di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, secondo la quale sarebbero ben 12.000 le offerte disponibili. Noi oggi a Cuore Denari capiremo quali sono i settori e le tipologie di professionalità che si possono ricercare in questo momento, se c'è ancora tempo per cercare qualcosa, se è già troppo tardi e se le opportunità nel periodo natalizio possono trasformarsi, quando l'Epifania poi tutte le feste se le sarà portate via, anche in qualcosa di più stabile. 800 24 0024, allora raccontateci se siete proprio alla ricerca di un lavoretto, magari per Natale, se siete studenti o magari se siete disoccupati di più lungo corso purtroppo, e quindi per voi Natale magari sarà l'occasione per rinfrescare un po' le finanze. Che tipo di lavoro state cercando? Avete già fatto l'esperienza di lavorare nel periodo festivo? Quali sono i pro e i contro di questa esperienza? Vi aspettiamo al nostro numero verde. Allora, primi freddi, dicevi Deborah, è vero, ma anche primi dolori, perché quando le temperature crollano e poi ci si mette anche una buona dose di umidità, ecco che dolori, dolorini iniziano a farsi sentire. Fatevi sentire anche voi al nostro numero verde. Mi raccomando, oggi vogliamo cercare di capire l'origine dei nostri acciacchi, vogliamo sapere a chi possiamo dare la colpa, al clima, agli anni, alla mancanza di allenamento, al troppo allenamento. Ci aiuterà individuare il colpevole una grande esperta. Voi intanto siete pronti a dirci dove vi fa male, come si presenta il dolore e quando si fa sentire, al mattino, a riposo, durante il movimento. Dai, muovetevi, prenotate subito il vostro intervento. 800 24 0024. Piacere, signore. Oh, molto lieto, signorina. Ti va di sederti sul mio ginocchio? Bene, 1, 2 e 3, ecco fatto. Io so la verità, signore. Lei è un dipendente di Cole. Ah, certo, questo è vero. Però è un Babbo Natale di gran classe. Grazie. È strano, la barba le sta attaccata alla faccia. Le basette dei Babbi Natale degli altri negozi sono troppo lunghe. Sono d'accordo. Le sue sembrano autentiche. E perché sono autentiche, come il resto, tocca. Allora, il miracolo sulla 34esima strada di New York. In realtà poi c'è anche una situazione che voglio raccontare tra poco ai nostri ascoltatori, che si è consumata a Roma, dove per appunto proprio candidarsi per una posizione da Babbo Natale in un centro commerciale disponibile fra il 5 e il 23 dicembre si sono presentati in tanti, tantissimi, per andare a vedere come funzionasse questa selezione. Anche un giornalista della Stampa si è così camuffato da candidato per partecipare a questo casting. Il posto disponibile è 2.000 euro lordi per un impegno tra il 5 e il 23 dicembre. Insomma, si sono presentati in tanti e questo anche è un segnale. La racconta insomma, lunga. Esattamente. Allora, la lista dei regali che dovremmo fare è pronta. Tra i buoni propositi, insomma, che abbiamo formulato, la vostra rosa è completa. C'è anche chi sta impegnandosi in questo periodo, come dicevamo all'inizio, in tutt'altro, la ricerca di un lavoro, approfitta delle opportunità che proprio in occasione del periodo natalizio si moltiplicano. Nei giorni scorsi, come anticipavamo prima, è stata diffusa una ricerca, quella di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, secondo la quale sarebbero ben 12.000 le offerte di lavoro sotto l'albero e riguardano principalmente i settori del turismo, della ristorazione, della grande distribuzione organizzata, della moda, l'accoglienza, la logistica. Insomma, le opportunità ci sono. Come le possiamo cogliere? Per saperne qualcosa di più abbiamo interpellato i diretti interessati per capire in quali città vengono ricercate queste professionalità, come ci si può candidare, a chi, sperando che non sia troppo tardi, ci auguriamo di no. Buongiorno ad Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, che appunto ribadisco per l'ennesima volta è l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro Italiane. Buongiorno dottor Di Maio. Benvenuto. Buongiorno a lei. Grazie. Buongiorno. Naturalmente stiamo coinvolgendo soprattutto voi, mi riferisco agli ascoltatori all'800 24 00 24. Raccontateci se proprio in questo momento siete alla ricerca della vostra occupazione sotto l'albero, o se avete già fatto questa ricerca, l'avete trovato, che tipo di opportunità avete colto, che tipo di salario vi è stato garantito e che tipo di contratto anche viene firmato per delle opportunità di così breve durata. Dottor Di Maio, ci spiegate come avete condotto questa indagine? Ma dunque, Assolavoro, come lei ha detto, raccoglie oltre il 90% delle agenzie per il lavoro operanti in Italia, quindi abbiamo fatto un'indagine campionaria tra i nostri associati, chiedendo loro di indicarci quelli che sono i settori merceologici e le professioni e quindi le competenze maggiormente richieste in questa fase dell'anno, quindi in funzione dell'imminente Natale. Abbiamo quindi definito questa ricerca, che a nostro modo di vedere è molto, molto interessante, perché evidenzia tutta una serie di opportunità che si trovano appunto sotto l'albero di Natale. Facciamo una lista allora molto chiara dei lavori particolarmente richiesti. Andiamo subito al concreto, dottor Di Maio, perché questa è la caratteristica principale della nostra trasmissione. Certo. Spirito di servizio a tutto campo. Perfetto. Allora, sicuramente le figure più richieste sono gli addetti alla vendita nella grande distribuzione, i magazzinieri, gli store manager è una figura molto altrettanto richiesta. C'è una grande domanda per gli addetti ai servizi nei comparti ad alta tecnologia, quindi tutta la parte informatica, oltre che tutta la parte relativa alla moda, al lusso e al beauty. In questo momento in cui c'è una grande attività anche di shopping legata anche al turismo, queste figure sono molto ricercate. Tra l'altro, proprio su questo andremo dopo la nostra prima pausa, dopo il traffico, perché avremo un ospite che ci racconterà proprio questa professione, che tipo di competenze ha bisogno di sviluppare, di mettere a disposizione appunto del mercato. Però mi pare di capire, dottor Di Maio, in prima linea tutto il mondo del commercio innanzitutto. Il settore degli alberghi e degli hotel pure particolarmente vivaci in questo periodo, che tipo di offerte abbiamo? Sì, assolutamente sì, quindi abbiamo detto commercio, turismo, accoglienza e grandi alberghi. Per quanto riguarda l'hotellerie, le richieste sono ovviamente per chef, pasticceri, camerieri, barman, e per quanto riguarda il food and beverage, ovviamente il receptionist, responsabile dell'accoglienza e professionisti nella cura della persona. Il tema della cura della persona è un tema molto in crescita, legato ovviamente sia al turismo sia al fatto che nella nostra società aumenta il tempo libero a disposizione delle persone, quindi c'è appunto il tema dei cosiddetti white jobs, e aumenta anche come dire, la richiesta di queste figure professionali. La ringrazio per questa precisazione, perché adesso sul tema della cura della persona le voglio chiedere qualche chiarimento in più, ma c'è una domanda. Ma quindi anche le Befane, dottor Di Maio, non sono ricercate? Babbo Natale sì, Befana no. Sì, com'è, diciamo, sta storia? No. Eppure anche la Befana ha il suo fascino, infatti, magari. E come dicono a Milano, il suo perché. Probabilmente è legato a una esterofilia di questo paese, per cui Babbo Natale è un po' più di importazione, la Befana è una figura più legata, certo, alla nostra tradizione, quindi si va su un modello diciamo di importazione anche su questo. Infatti. Dottor Di Maio, sono particolarmente le città turistiche che propongono queste offerte in questo periodo, oppure abbiamo un po' una situazione, come dire, un po' più generalizzata, diciamo, sul territorio? No, la situazione è abbastanza trasversale. È chiaro che città turistiche hanno, come dire, una maggiore incidenza, penso per esempio a Matera, capitale della cultura, oppure in città dove ci sono eventi particolari, ma la nostra rilevazione non si è focalizzata su alcune città, ma rileviamo questa richiesta di competenze in tutto il paese in maniera trasversale. Ci sono alcune competenze specifiche che risultano delle carte magari particolarmente forti nei lavori che ci ha indicato, dottor Di Maio, in questo momento dell'anno? Sicuramente sapere le lingue, ho visto che vengono richiesti, a parte l'inglese che è abbastanza scontato, soprattutto per chi deve intercettare il turista e prendersene cura, ma anche il russo e il cinese, dottor Di Maio, qua veramente... Russo-cinese, io aggiungerei anche il giapponese, sono lingue legate a paesi ad alto impatto dal punto di vista del turismo in entrata nel nostro paese, quindi sono molto richieste. Vi sono anche competenze di carattere digitale, come abbiamo detto in precedenza, legato appunto all'information technology, ma viene richiesta anche quella che noi chiamiamo una metacompetenza, cioè la capacità, oltre alle conoscenze specifiche, la capacità di lavorare insieme, la capacità di gestire situazioni complesse, e quindi anche una buona essere impegni, ecco, questo è importante. Allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi affronteremo il tema dei tipi di contratti che vengono proposti, che tipo di orari naturalmente bisogna sostenere in un periodo dell'anno di così particolare intensità, perché immagino che per il Babbo Natale, così come per altre figure professionali che devono appunto rendersi disponibili per turisti e non solo, i turni siano abbastanza intensivi, magari molti lavori sono concentrati nel weekend, per cui anche lì prepariamoci un po' a fare delle richieste pertinenti al possibile datore di lavoro. 800 24 00 24, il numero verde se volete a vostra disposizione. Ci risentiamo tra pochissimo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Dicembre, noi già ci lanciamo con le canzoni di Natale, quest'anno l'abbiamo presa proprio per tempo, tra l'altro lo possiamo preannunciare che stiamo preparando la nostra super iniziativa natalizia con un grandissimo amico. Vai, racconta. Devo dire dell'altro, sì? No, preparate la vostra vena creativa, mm-hmm. Se vi piace scrivere le favole sappiate che dal primo dicembre cominceremo con la collaborazione del più grande scrittore italiano in questo momento, sicuramente il più apprezzato dagli italiani. Faremo una cosa molto bella, scriveremo una favola di Natale, una collettiva. Brava, la favola collettiva che parte da Cuore Denari e arriva nelle famiglie dei nostri ascoltatori. La scriviamo a 2, 4, 8, 10, 1000 mani. Assolutamente, quindi cerchiamo anche in questo modo di rendere un po' più lieti questi momenti che sono ancora molto difficili per tante persone, perché il tema del lavoro che stiamo affrontando questa mattina è sempre, sempre caldo, il tasso di disoccupazione d'Italia è altissimo, quello giovanile neanche ne stiamo a parlare perché siamo ben oltre il 40%, perché questo è il momento favorevole per cercare magari la cosiddetta occupazione sotto l'albero, se avete un po' di tempo in questo periodo e naturalmente siete a caccia anche di una opportunità che vi dia modo di portare a casa qualche soldino, insomma sotto l'albero, come ci sta raccontando Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, ci sono tante opzioni molto ovviamente disponibili, tante opportunità nei centri commerciali, nel settore del commercio, della ristorazione, nel settore alberghiero. Che tipo di contratti, dottor Di Maio, vengono proposti prevalentemente per periodi di tempo così brevi, perché poco più di un mese si va, no, tra l'altro? Sì, diciamo un mese, ma vi è anche la coda di gennaio, quindi si può arrivare anche a due mesi. Sono contratti a tempo determinato nella forma della somministrazione. Le agenzie appunto utilizzano questo contratto, che è un contratto a termine, che fornisce a questi ragazzi le stesse garanzie e la stessa retribuzione dei dipendenti diretti dell'azienda presso la quale. Quindi lei ci ha dato già il suggerimento corretto. Se per esempio volessimo fare non lo so, la commessa perché c'è un negozio del centro commerciale che frequentiamo tutti i giorni che sta ricercando, magari è meglio farsi un giro prima in un'agenzia del lavoro per vedere se ci sono questi lavori temporanei proprio natalizi, dottor Di Maio, piuttosto che andare direttamente al negozio del centro commerciale, visto che la somministrazione è la forma contrattuale prevalente. Sì, guardi, assolutamente sì. Sul sito di Assolavoro, www.assolavoro.eu, c'è l'elenco delle nostre agenzie associate. Sono tutti soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro, quindi sono iscritti all'albo, previsto appunto dalla legge, e queste agenzie hanno proprio questo ruolo, combinare le esigenze delle aziende che ricercano determinate figure professionali con le esigenze di coloro che cercano il lavoro. Quindi utilizzate questi soggetti che sono soggetti autorizzati e occhio agli intermediari che invece abusano della loro attività. Dottor perché sono le truffe in giro. Bravo, dottor Di Maio, abbiamo la sensazione che questi posti di lavoro in questo periodo appunto sotto Natale siano disponibili prevalentemente per una popolazione di giovani. Ci sono già delle persone attorno ai 50 anni che si stanno lamentando, ci stanno scrivendo al 349-238-6666 o ci stanno anche contattando telefonicamente, magari se riusciamo adesso qualcuno ne ascoltiamo, si stanno lamentando del fatto che per gli over 50 non c'è nessuna occasione né a Natale né a Capodanno né a Pasqua, nient'altro. Insomma, si vive ancora un problema di questo tipo in maniera così dirompente? Ma guardi, dal nostro osservatorio noi abbiamo il 20% della nostra popolazione che ha fino a 24 anni, il 30% circa da 25 a 34, gli over, quindi tra 45 e 54 anni, sono il 20%. Quindi noi abbiamo tra i nostri lavoratori una buona percentuale di over, quindi di persone che magari sono state espulse dal mercato del lavoro e che vengono accompagnate verso nuove occasioni. È chiaro che quando parliamo di lavori natalizi, stiamo parlando di lavori di breve durata che rappresentano un po' la porta d'ingresso verso occasioni di lavoro più stabili. Un over quarantenne è bene che si rivolga alle agenzie che hanno dei servizi specializzati per questa fascia di popolazione. Le leggiamo, dottor Di Maio, un messaggio di Matteo che ci scrive che sta cercando persone che consegnano il sushi a casa a Milano, ho tradotto bene, sì. Molto ben pagato, esatto, per il tipo di lavoro. Non si presenta quasi nessuno, tutti cercano lavori magari pagati meno ma più rilassati. Mia specifica esperienza. Intanto Matteo ci scriva a cuoredenari@radio24.it, perché io sono certa che dopo aver sentito questo messaggio minimo ci scrivono 10 persone su Milano che verranno di corsa a farsi una chiacchierata con lei e diranno: mi manda Cuore Denari. Esatto, dopodiché ordino anch'io subito perché il sushi insomma mi piace particolarmente. Detto questo, abbiamo parlato di settori come quello commerciale, della ristorazione, del turismo, ma a tutto questo si affianca un settore che potremmo definire trasversale, lavori che consistono nell'accompagnare il pubblico nelle sue spese. Ad esempio c'è una figura professionale che si conferma come profilo proprio emergente degli ultimi tempi. Sentite un po'. Avete 10 minuti, ragazze. Vado? Sì, corri. Corro. Ma voi lo sapete quali sono i colori giorno per antonomasia? Luisella. Colori chiari? No, pastello. Sbagliato. Un crema. Noi questa voce la conosciamo molto bene perché è quella di un'amica di Cuore Denari che stamattina non ha potuto essere con noi perché era impegnata ad un corso, ma ci saluta tanto, saluta tutti. Esatto. Era lì per un pelo. Carla Gozzi, molto nota perché insomma fa tantissime trasmissioni, oltre che fare questo proprio come suo lavoro. Stiamo parlando della figura del personal shopper per accompagnare i turisti stranieri nell'acquisto del Made in Italy nel periodo natalizio. Allora, noi ne abbiamo stamattina una di tutto rispetto perché abbiamo con noi Monica Sirani, presidente dell'Associazione Italiana Personal Shopper. Buongiorno Monica. Buongiorno, benvenuta. Ecco, purtroppo io fra 40 secondi devo andare a sentire, non purtroppo, dobbiamo andare a sentire il giornale radio, per cui non vorrei sprecare questi pochi secondi per farle fare, Monica, una risposta brevissima. Quindi se lei viene con noi nella seconda parte del programma le faccio raccontare bene che cos'è la vostra associazione, ma soprattutto come ci si candida a fare questo lavoro, perché tra l'altro non è neanche per tutti. Adesso sembra vada molto di moda, speriamo che non sia una moda ma qualcosa di più strutturale e professionale in Italia. Ma Di Maio, se ne richiedono tanti di questi professionisti, in 20 secondi. Sì, stiamo rilevando anche noi che questa è una figura sempre più richiesta, legato a due fenomeni che dicevo, quindi maggior tempo libero delle persone e quindi richiesta di queste competenze. Volevo dire una cosa in 10 secondi, sì. Il tema delle vacanze, cioè di figure professionali per le quali non si trovano le persone disponibili a lavorare, c'è un tema di formazione di competenze delle persone. Il nostro settore eroga 160 milioni di euro ogni anno per adeguare le competenze delle persone. Bellissimo. Ai lavori che richiesti dal mercato, questo è importante. Approfondiamo questi concetti dopo il giornale radio, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione se volete raccontarci, se siete alla ricerca di un posto di lavoro sotto l'albero, che tipo di lavoro state cercando, avete già fatto l'esperienza di lavorare nel periodo festivo, quali sono secondo voi i pro e i contro. Ne parliamo perché Assolavoro ha diffuso proprio nei giorni scorsi un'indagine che abbiamo raccontato molto dettagliatamente, secondo la quale in questo periodo sono disponibili almeno 12.000 posti di lavoro, servono addetti alla vendita nella grande distribuzione, magazzinieri, store manager, sono molto ricercati anche coloro che hanno competenze specifiche per rispondere alle domande dei clienti nei comparti ad alta tecnologia, ad elevata specializzazione, poi settori come moda, lusso, beauty, cercano diverse figure dai consulenti di bellezza ai make-up artist e serve soprattutto una buona conoscenza delle lingue straniere, l'inglese su tutti ovviamente, ma anche il russo, il cinese e persino il giapponese, come ci spiegava Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Allora, in molti, Nicoletta, hanno risposto alla richiesta dell'ascoltatore che ha bisogno di un consegna, di una persona che consegna a domicilio il sushi a Milano. Perfetto. Allora io chiedo a questo ascoltatore se ci può scrivere i suoi riferimenti, perché si sono già candidati Federico, un ragazzo che ci scrive una mail, sono molto interessato, ha 28 anni, italiano, auto e moto munito, per cui può partire già praticamente fra 10 secondi a fare la sua prima consegna di sushi, così come anche Patricia ci scrive, richiedo cortesemente informazioni circa questo contatto per propormi per questa posizione. Per quindi cui, Matteo, lasci tutti, ecco, i suoi riferimenti e se le cuore fa piacere, naturalmente fa da, si attiva. Sì, si sostituisce ad un'agenzia di Assolavoro. Di Maio è contento? Sente come funzioniamo bene? Complimenti, potresti aprire un'agenzia per il lavoro. Guardi, no, il tema è importante, i datori di lavoro si rivolgono a noi perché ormai il fai da te è superato e lo sarà sempre di più, perché le esigenze di lavoro sono sempre diversificate, molto anche saltuarie, quindi ci sono degli intermediari specializzati che sono le agenzie che fanno proprio questo, mettere insieme la domanda con l'offerta di lavoro. Quindi io suggerirei al venditore di sushi magari di andare in qualche agenzia e vedrà che gliene troveremo parecchi allora, di venditori. Prima di sentire intanto come funziona l'attività del personal shopper, un altro messaggio un po' articolato ci ha colpito, Nicoletta. È quello di Davide, che ha 50 anni, è di Milano, vive a Milano, è stato licenziato 2 mesi fa, non ho ancora trovato niente, sono informatico, ho anche esperienza di vendita, essendomi formato professionalmente nel negozio di famiglia che è stato chiuso, tutto quello che si dice del lavoro sono solo parole, la mia unica vera possibilità di lavoro è quella di andare in Svizzera, altrimenti la mia famiglia va allo sbando. Un allora, salutone. Esatto, Davide è scoraggiatissimo, ha anche ragione di esserlo, perché se ti trovi a spasso a questa età immagino che tu possa perdere completamente tutte le tue certezze, i tuoi riferimenti. È un informatico, sono Di Maio, professionalità molto ricercate queste, perché Davide non riesce a trovare un'occasione che fa per lui, secondo lei si candida male? Qualche volta dobbiamo anche fare un po' i conti con la modalità con cui ci proponiamo per i posti di lavoro. Diamo 2 suggerimenti sulla base di quello che lei ha sentito, ovviamente, perché bisognerebbe fare 2 chiacchiere con questa persona. Che cosa gli possiamo suggerire di fare al volo? Allora, essere assistito da un operatore specializzato che farà le seguenti cose: farà un assessment sulle sue competenze, fa un'analisi del mercato di riferimento per vedere se le competenze sono in linea, gli spiega come si va a un colloquio e magari gli mette in ordine il curriculum e lo forma se le sue competenze devono essere integrate, aggiornate, possa essere aggiornato. Queste sono le attività che però devono essere svolte con un tutor che svolge questo tipo di attività in maniera gratuita, peraltro, per il lavoratore, perché le agenzie non ricevono nessun compenso dal candidato. Questo è importante: quando i candidati sentono che qualche intermediario vuole dei soldi, devono correre alla procura della Repubblica più vicina, perché vuol dire che si tratta di truffatori. Questa cosa è fondamentale: rivolgersi ai soggetti autorizzati iscritti all'albo del Ministero, che svolgono questi servizi gratuitamente. Subito sul sito di Assolavoro, là ci sono tutti gli operatori accreditati, stracertificati, per cui Davide quantomeno li naviga in acque sicure. E soprattutto poi ci faccia sapere, Davide, esattamente, come è andata a finire. Monica Sirani, presidente dell'Associazione Italiana Personal Shopper. Buongiorno di nuovo, Monica. Buongiorno, eccoci allora, qua. Tra l'altro io ti do del tu, Monica, perché ci stai già molto simpatica come lavoro. Abbiamo già così una mezza idea di farci una mezza passeggiata sotto Natale con Nicoletta insieme a te, soprattutto per darci qualche suggerimento sul nostro look, se lo consideri del tutto inadeguato, quindi ci fai comprare qualcosa di appropriato. Tu hai fatto il corso con Carla Gozzi, mi ricordo male? No, in realtà io non ho fatto il corso con Carla Gorgi, la mia formazione è iniziata in Inghilterra, quindi io ho studiato, addirittura, mi sono formata lì, sì, a Londra. Allora, negli ultimi anni la vostra professione... c'è una scuola proprio per personal shopper. Credo che anche quella di Carla Gozzi sia proprio un'accademia, una sorta, esatto, infatti, di questo tipo. Detto questo, adesso non vogliamo parlare di lei per due ore ed evocarla, la invitiamo più avanti. La vostra professione, Monica, è cresciuta molto negli anni, no? Forse è merito anche un po' della TV o di che cos'altro? Perché sia un po' come c'è questa proliferazione di chef adesso in tutta Italia, grazie ai reality che si sono cimentati un po' nel raccontare come si cucina, e forse anche per la vostra professione vale la stessa dinamica. Beh sì, diciamo che sicuramente negli ultimi anni se ne parla molto di più, quindi questo grazie anche ai media, ai vari programmi che sicuramente dedicano maggiore attenzione anche a questo lavoro che in realtà esiste da decenni, quindi io stesso ho iniziato 7 anni fa ormai qua in Italia, quindi insomma diciamo che qualcuno ancora oggi non sa bene che cosa sia questo lavoro. Esatto, raccontiamolo però, allora subito, perché non è andare in giro per negozi a divertirsi, certamente lo è, perché è sempre meglio che stare, come dire, miniera, magari lavorare, esatto, fare un lavoro più pesante di questo tipo. Detto questo, ci si deve prendere cura a 360 gradi del cliente che si segue. Allora Monica, arriva veramente dal Giappone una persona che vuole orientarsi nelle vie della moda di Milano, insomma, come ci si prende cura di questa persona grazie alla vostra professionalità? Assolutamente, noi iniziamo innanzitutto a lavorare appunto con la persona in questione, quindi con il turista, ma non solo turista, anche con gli italiani, ancora prima che arrivi in realtà, quindi c'è tutta una parte di preparazione del lavoro, quindi nulla viene, come dire, improvvisato. E assolutamente si cerca appunto di costruire quello che sarà poi la giornata con il cliente in modo da pianificare assolutamente tutti i dettagli che siano in linea ad esempio con il budget che il cliente appunto mette a disposizione per lo shopping ad esempio, o chiaramente con quello che sono le sue necessità e soprattutto quello che sarà appunto un po' il gusto. E si cerca appunto di pianificare in modo dettagliato la giornata in modo che il cliente possa avere assolutamente un parere qualificato che possa garantirgli il miglior acquisto e sicuramente anche il miglior consiglio professionale. Certo. Quindi esatto. Non è una passeggiata così, insomma, non è così semplice come sempre. Ma è proprio un lavoro mirato, tagliato su misura della persona che si rivolge a voi, Monica. Non voglio essere brutale con questa domanda, è poco elegante, quindi non ti chiederò quant'è lo stipendio che riesci ad ottenere alla fine del mese, ma come si compone il vostro stipendio, posso chiedertelo? Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto noi veniamo pagati dal cliente, quindi esiste una tariffa oraria che viene declinata poi in mezza giornata o giornata intera, o addirittura c'è anche chi ci prende per più giorni, chiaramente, a seconda di quelle che sono le necessità del cliente. C'è anche da dire però che noi abbiamo diversi servizi, quindi a parte quello che è appunto lo shopping in sé, abbiamo anche ad esempio la parte del guardaroba, quindi l'analisi e la riorganizzazione del guardaroba, così come la preparazione della valigia per degli eventi ad esempio importanti, che siano di business oppure che siano appunto, non so, un festival del cinema, piuttosto che, quindi abbiamo sicuramente una diversificazione dei servizi. Vedi? Monica, scusa, ma qua abbiamo colto la palla al balzo, qua si diversifica sempre, dal risparmio all'alimentazione, e quindi anche in questo campo vale la stessa regola. Monica, sotto Natale succede qualcosa di particolarmente effervescente per il vostro lavoro? È più intenso il periodo rispetto ad altri momenti dell'anno? Beh, sicuramente sì, Natale per noi si lavora molto, così come il periodo subito successivo, quindi quello dei saldi. È un periodo sicuramente dove noi dedichiamo molto tempo, cioè non c'è né sabato né domenica, come dire, non ci sono giornate di riposo, ma ci dedichiamo assolutamente a poter... È alta stagione per esatto, voi. Però insomma vi divertite, c'è questa bella Monica, questa bella voce squillante, entusiasta del lavoro che fa. Allora, per tutte le informazioni, per i curiosi, andate a vedere sul sito dell'Associazione Italiana Personal Shopper. Grazie a Monica Sirani, grazie anche ad Agostino Di Maio per essere stato con noi. Disco, andate a vedere sul sito di Asso Lavoro, soprattutto la rosa delle agenzie per il lavoro certificate per fare appunto questo lavoro di intermediare mestieri, lavori disponibili e soprattutto le persone che hanno bisogno di lavorare. Sto monitorando anche WhatsApp e sono arrivate delle richieste per il nostro ascoltatore informatico di Milano. Ottimo. Ce lo chiede Fulvio, che naturalmente ci dà il suo riferimento mail. Vi ringraziamo. Benissimo. Altri ascoltatori. Davide ci scrive, propongono. Allora, scriveteci tutti a cuoredenari@radio24.it, perché con i messaggi, gli SMS monitoriamo, ma facciamo fatica poi a mettervi in contatto. Scriveteci tutti. Vittoria, anche Vittoria, brava, che parla russo e romeno e lavora nella zona di Torino, quindi scriveteci, apriamo questo sportellino cerca lavoro. Ottimo, allora adesso intanto passiamo. Qualche dolorino ce l'ho perché ho un po' esagerato in palestra ieri sera. Io te l'ho detto, ma vai piano. L'acido lattico persino nelle sopracciglia stamattina, tra poco. Sopra il giorno di dolore. Sono tutto rotto quando ossa, articolazioni e muscoli si lamentano. Vi capita? Che fate? E soprattutto a cosa pensate? Date la colpa alla palestra come fa Deborah? Agli anni, al freddo, all'artrosi, al sovrappeso, alla sedentarietà? A quella frattura che vi siete procurati qualche anno fa sciando e non vi ha mai più non siete mai più stati quelli di prima? Chiariamoci subito le idee oggi insieme alla dottoressa Magda Scarpellini, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia all'ospedale Fornaroli di Magenta in provincia di Milano. Professoressa Scarpellini, buongiorno. Buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori. A Genova si dice chi non cianse non tetta, per dire che chi non si lamenta non trova soddisfazione. Mi perdonino i genovesi all'ascolto per la pronuncia, ma mi serviva un po' questo aggancio per fare un appello. Lamentiamoci, raccontiamo i nostri acciacchi, parliamo liberamente del nostro male al ginocchio, della fatica che facciamo a muovere la spalla, di quando già al mattino ci sentiamo tutti rotti, della nostra cervicale e del nostro mal di schiena. Oggi cercheremo di scoprire la causa del nostro problema e soprattutto il modo migliore per risolverlo. Dottoressa Scarpellini, non è sempre però facile capire se il dolore parte dalle ossa, dalle articolazioni, dai muscoli, dai tendini. Ci dà una mano lei? Certo, in effetti il dolore, io ovviamente oggi mi soffermerò su quello di origine muscoloscheletrica perché è il mio ambito, è molto variegato, oltretutto è molto complicato anche perché in molti pazienti ci sono varie cause nello stesso paziente, quindi lo stesso dolore muscolare, dolore osseo possono essere nello stesso paziente. Allora, il dolore è di origine muscolare, se, dottoressa Scarpellini, continui lei, ci dia qualche indicazione. Il dolore muscolare innanzitutto è un dolore che molto spesso è collegato a una fibra che è contratta, le fibre muscolari sono facilmente risentono del dolore quando sono contratte, possono essere infiammati i muscoli quando c'è per esempio stato un trauma, come lei ha detto prima, però attenzione perché possiamo confonderci con i virus, con l'influenza che ci fa sentire tutto rotto, anche lo stress ci può far aumentare un dolore muscolare. Certamente invece dal punto di vista reumatologico il dolore muscolare può essere associato a forme artritico-artrosiche, perché quando il paziente ha dolore riduce l'uso della sua superficie articolare, di conseguenza il muscolo ne risente. E certo, perché se abbiamo dolori tendiamo a non muoverci. Certo. Ha citato già artrosi e artrite, naturalmente già si sono scatenati. Se avete ricevuto diagnosi, se pensate che quel dolorino possa essere colpa dell'artrosi, 800 24 00 24. Ma dottoressa Scarpellini, il dolore è di origine ossea articolare quando e se? Il dolore osteoarticolare in genere è il dolore che è proprio collegato alle malattie, in particolare soprattutto alle malattie che ho citato. Dico subito che le artriti sono tantissime. Una famiglia numerosissima. Una famiglia numerosissima, le patologie reumatiche sono oltre 120, quindi chi più ne ha più ne metta. Tutte, quasi tutte partono dall'osso e dall'articolazione con tutto quello che c'è intorno. E il dolore è proprio riferito in questi casi proprio nella sede dove il paziente ci riferisce il male. Quindi se noi schiacciamo o se tocchiamo l'articolazione o la sede ossea interessata, suscitiamo dolore nel nostro paziente. Questo serve per capire invece dolori che possono essere invece riflessi a distanza, per dire una cosa molto semplice, quando quante volte i nostri pazienti ci dicono che hanno male lungo la gamba e poi dopo noi troviamo un problema alla colonna vertebrale, quindi allora questi invece sono i dolori di tipo riflesso a distanza. Abbiamo dimenticato tendini e legamenti, possono dare anche loro dolore, che certamente, ne dice? Tra l'altro poverini sono sempre un po' abbandonati nel mondo reumatologico, sì. Si pensa sempre a traumi sportivi quando uno si è rotto facendo qualche sport il tendine e legamento, in realtà invece per noi sono molto importanti, anzi molte volte per esempio in un giovane maschio adulto potrebbe partire una grave forma di spondiloartrite anchilosante o psoriasica, sì, partendo da una tendinite achillea, del tendine di Achille. Molto spesso il ragazzo magari pensa che ha messo una scarpa da ginnastica che gli ha fatto male, non ci fa caso, magari per sbaglio va da un ortopedico che gli cerca l'ernia al disco e non c'è, e poi invece noi dopo purtroppo molto tempo, e questo è un concetto che io vorrei molto sottolineare con i pazienti, la diagnosi tardiva è un problema per tutti, soprattutto per i reumatologi, fare diagnosi molto avanti quando poi arriva l'articolazione infiammata, quindi le entesi che sono le sedi di inserzione del tendine sono molto importanti e si possono infiammare, come per esempio il tendine d'Achille, oppure per esempio le guaine. Quante signore sono state operate di sindrome del canale carpale, in realtà era l'inizio di un'artrite reumatoide. Hai visto? Quindi due messaggi per i giovani e per le donne. Dottoressa Scarpellini, certo, facciamo un appello: 800 24 00 24. Non sottovalutate il dolore, bisogna naturalmente cercare lo specialista specifico, a ciascuno il suo mestè, come si dice. Il reumatologo si occupa, dottoressa Scarpellini, in modo preciso di tutto quello che attiene all'apparato osteoarticolare, corretto? Non solo, cioè, ma anche le malattie autoimmuni, le connettiviti che sono causate da agenti di autoanticorpi che reagiscono contro di noi e non ci riconoscono più, quali per esempio il lupus, la sclerodermia, la sindrome di Sjögren, il fenomeno di Raynaud, quindi ci sono tante altre patologie, e soprattutto tengo a precisare che l'ambito del reumatologo è la diagnostica e la terapia farmacologica, mentre l'ortopedico è il chirurgo dell'osso e dell'articolazione. Sono due, ecco, un clinico e un chirurgo. Esatto. Silvia, esatto, ci chiama per internista, dall'altro al chirurgo. Silvia ci chiama dalla provincia di Pavia, stia lì Silvia un attimo. Intanto io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori le tre parole chiave su cui oggi abbiamo costruito la nostra puntata: dove, come, quando. Quindi dove sentite dolore? La sede è importante, anche se a volte il dolore non sembra localizzato ma diffuso, da qui l'espressione sono tutto rotto. La nostra seconda parola guida è come, quindi come si manifesta il dolore, si irradia, si localizza, cammina, pulsa, anche il dolore ha un suo linguaggio. E quando? Al mattino, alla sera, quando eseguiamo un movimento, dopo essere andati in palestra come Deborah, ogni volta che ci mettiamo in piedi, tutte le volte che ci alziamo dalla sedia, oppure quando dobbiamo uscire dalla, no, svincola dalla macchina o sederci. 800 24 00 24. Poi attenzione, la dottoressa Scarpellini ha sottolineato un dolore, il del tendine d'Achille, che potrebbe riferirsi, essere la spia di una malattia reumatica. Silvia, buongiorno dalla provincia di Pavia. Sì, allora, eccola, io... che cane ha Silvia, sì, lei? 60. No, volevo dire il suo cane, lo che sento cane? Da... Ah, il cane, no? Capito, sì, che ho due cagnolini, sì, adesso sono in giardino, giusto per fare un po' di movimento. È bravo. Per riagganciarmi, per collegarmi a quanto dicevate, dove, come, quando. Allora, io soffro da mal di schiena praticamente da un anno, quasi incessantemente. Dove? Nella regione lombare, quindi localizzato tutto qua in questa regione sacrale, lombo sacrale, sì. Quando? Sempre, e come? Tutto quello che avete detto voi, quindi quando mi alzo dalla sedia, quando faccio movimenti di flessione, qualsiasi movimento mi provoca questo dolore. Invalidante. Sempre persistente, direi quasi invalidante. Grazie in Silvia, momenti. Vediamo se la dottoressa Scarpellini ha tutte le indicazioni per provare a dare una mano a Silvia, alle persone che si ritrovano nella sua condizione. Dottoressa. Ma certo, intanto saluto Silvia, mi sembra di avere... quanti anni ha Silvia che non ho capito? 60. 60. Beh, innanzitutto allora io direi che mi ha detto che ce l'ha da circa un anno, quindi in genere un'artrite acuta Silvia non avrebbe potuto aspettare almeno per un anno a consultare un reumatologo. Probabilmente si tratta nella grande differenza del dolore tra dolore infiammatorio, questo è importante, nel dolore lombare, nel mal di schiena che colpisce tutta la colonna ma in particolare la lombosacrale, noi dobbiamo sempre differenziare il dolore di tipo infiammatorio dal dolore di tipo meccanico degenerativo da consumo. Quello che racconta Silvia mi sembra più di inserirlo nell'ambito delle malattie meccaniche degenerative, quindi potrebbe avere un'artrosi, potrebbe anche avere insieme una compressione del disco, però vorrei introdurre anche un altro concetto, vista l'età, probabilmente Silvia è in menopausa, quindi si potrebbe pensare anche che ci sia associato magari una riduzione dell'altezza delle vertebre, secondaria a un'osteoporosi, magari un'osteoporosi non curata, non controllata. Lo dico in generale per chi ci si ascolta, perché oggi le donne si preoccupano sempre, questa è anche un po' un'opinione generalizzata, di fare la mammografia, non si ricordano mai però come screening almeno ogni anno e mezzo o due di fare una MOC quando hanno fattori di rischio e soprattutto quando sono in menopausa. E molte volte arrivano mal di schiena anche in pronto soccorso importanti, dove la parola frattura quando è di femore si capisce al volo, quando invece è frattura di colonna, cioè un lieve abbassamento ma che però può fare molto molto male, è collegata invece a un'osteoporosi non vista, non curata, ed è un peccato perché oggi ci si può invecchiare bene con farmaci semplicissimi. A proposito di schiena e quindi di dolore, il nostro amico Francesco Piastrellista, che noi conosciamo bene perché è un nostro fan, ci scrive anche su WhatsApp, per il freddo ha preso una fascia elastica, dottoressa Scarpellini, che gli mantiene calda la colonna vertebrale, dato che l'anno scorso ha scoperto gli hanno diagnosticato un'ernia discale all'altezza L4, L5, L6. Fa bene il nostro amico? Allora, il discorso della fascia serve in qua proprio perché fa il piastrellista, c'è una fascia indipendentemente dal fatto che scaldi e perché lo aiuta a sostenere i muscoli paravertebrali, che quindi fanno un corollario intorno alla colonna vertebrale stessa. Il caldo invece è un po' un'opinione comune ma non sempre vera, cioè, ed è semplicemente da una sensazione piacevole ai pazienti che hanno artrosi o ernie, perché decontraggono i muscoli, il caldo fa decontrarre, però purtroppo non è sempre la soluzione migliore quello che è la causa. La fascia più che altro sono quelle rigide per tenere in piedi tra virgolette il paziente, lo sostengono. Allora, quindi abbiamo sistemato anche Francesco. 800 24 00 24, lamentatevi liberamente al nostro numero verde, dove, come, quando, e la dottoressa Scarpellini ci aiuterà a individuare il colpevole o i colpevoli, a volte sono più di uno, soprattutto noi donne che siamo più esposte al rischio di osteoporosi. La dottoressa l'ha sottolineato per bene, ma attenzione, andremo anche a scoprire quali sono i sintomi, le sedi in cui il dolore diventa sospetto. Allora, adesso abbiamo di che lamentarci per l'andamento della giornata finanziaria. Sono, te lo dico già, sono dolori, a tra poco. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. L'inverno è solo e stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. Siamo tornati dove, come, quando. Queste sono le tre parole chiave su cui abbiamo costruito questa puntata in cui parliamo di dolori, perché la stagione lo impone. Con i primi freddi si fanno sentire nuovi dolori, i vecchi sembrano riacutizzarsi. Ma è sempre solo colpa del clima, del freddo, o invece sono le colpa degli anni? Parliamone oggi insieme alla dottoressa Magda Scarpellini, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia all'ospedale Fornaroli di Magenta. Se vi sentite anche voi un po' doloranti, arrugginiti, acciaccati, chiamateci e lamentatevi al nostro numero verde, perché troverete una spiegazione. Dottoressa Scarpellini, prima voglio lanciare il domandone di oggi, Deborah, che ci ha l'abbiamo in serbo. C'è qualcosa in... Abbiamo parlato di freddo. Allora, qual è la temperatura più bassa, attenzione, mai registrata sulla Terra? 800 24 00 24. Vi do un aiuto. È stata nell'agosto, è stata rilevata nell'agosto del 2010. Quindi questo già ci orienta. Vabbè, non in Italia, immaginiamo, perché là sarà stato caldo di certo. Allora, dottoressa, stiamo cercando il colpevole. Abbiamo già anticipato che avremo parlato sicuramente di artrosi e di artrite, tra le malattie reumatiche più popolari, più conosciute anche tra i non addetti ai lavori, ci sono proprio queste due malattie, ma chi di noi sa distinguere, riconoscere l'una dall'altra? Dottoressa, allora partiamo dal dolore, che si comporta in modo differente nelle due situazioni, insorge in momenti della giornata diversi, ha una durata diversa, in un caso viene accentuato dal movimento, nell'altro attenuato. Certo, dunque allora innanzitutto sono due mondi quasi divisi ma per alcuni tratti uniti, mi spiego, cioè le artriti, di cui mi piace dire che le più importanti sono l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, la spondiloartrite, la spondilite anchiosante, e invece l'artrosi, che noi meglio chiamiamo osteoartrosi, proprio per evidenziare il fatto che vengono colpite sia l'osso che l'articolazione, oltretutto l'apparato muscolo-tendineo che c'è intorno, sono diverse per questo motivo, che le artriti, lo dice la parola ite, cioè c'è infiammazione, quindi c'è il dolore, in questo caso è di tipo infiammatorio, poi ci tornerò. Invece l'artrosi è più una malattia da consumo meccanico e degenerativo, da stress meccanico dell'articolazione coinvolta, però nulla vieta, ed è questo per cui dico che alcune volte si possono confondere all'inizio, ci può essere un episodio infiammatorio nell'articolazione artrosica in alcuni momenti magari dell'anno in effetti riferiti al clima. Cioè le sedi sono abbastanza simili, però dico subito che l'artrite reumatoide per esempio non colpisce quasi mai la colonna vertebrale, pochissimo la prima e seconda vertebra cervicale, mentre l'artrosi la colonna la fa molto da padrona, quindi già le sedi possono essere diverse, ma soprattutto quello che è totalmente differente è il modo in cui si evidenzia il dolore, perché nell'artrite noi abbiamo delle articolazioni rosse, calde, dolenti, qualche volta noi le schiacciamo e sentiamo quasi un ballottamento, perché dentro nell'articolazione stessa ci può essere del liquido, quando è nel ginocchio lo possiamo anche estrarre e analizzarlo, quindi già invece l'articolazione artrosica è più deformata, è più rigida, ma non quasi mai, se non è in fase infiammatoria in quel momento, è calda o dolente, quindi già il modo di come si manifesta. Poi il discorso è anche quando, come giustamente lei dice, nel senso che l'artrite, il dolore infiammatorio, quindi quello delle artriti, è molto di più all'inizio della mattinata, anzi neanche nelle ultime ore della notte, e a riposo è peggio che alla sera tardi. Chi ha l'artrite dice sempre che non vorrebbe andare mai a dormire, per non svegliarsi mai, perché al mattino sono veramente lacrime amare e dura questa rigidità oltre mezz'ora, e anche la durata, oltre mezz'ora è spesso più artrite, meno di mezz'ora sono un po' di artrosi. Però invece l'artrosi è diverso, perché negli anni deforma, magari fa arrivare dal reumatologo più tardi, e il dolore dell'artrosi invece è più tardivo, nel pomeriggio, verso sera, se si riposa si sta meglio. E anche quello che le aveva detto, il clima, cioè in genere il clima peggiore per le malattie reumatiche più gravi, che sono sicuramente le artriti, è d'estate il malato reumatico sta molto peggio, perché come ho detto, caldo rosso, con lente, caldo, certo. Io devo mettere il ghiaccio e non andare a bollire ai Caraibi a mezzogiorno sotto il sole se ho un'artrite. Quindi se sentiamo adesso dolore, ci sentiamo un pochino tutti rotti, è più facile, no, che sia un dolore artrosico che uno provocato dall'artrite. In questo periodo, ecco, sì. Così sfatiamo, perché si dice sempre, no, i reumatismi vengono con il freddo, ma bisogna fare un distinguo. 800 24 00 24. Attenzione però, l'artrosi non è una malattia per vecchi e così può colpire anche i giovani, vero dottoressa? Sì, sì, infatti ci stanno scrivendo in tanti. Si è tolta questo luogo comune, cioè sono vari luoghi comuni purtroppo nei reumatismi, cioè di dire sì tanto non ci si può fare niente, sei vecchio ti è venuta un po' di artrosi. In realtà oggi con i mezzi che abbiamo diagnostici e con un'attenta storia clinica del paziente e con una visita precoce del reumatologo noi scopriamo artrosi anche a 35-40 anni. Certamente non bisogna aspettare di avere un male altissimo per arrivare, oppure pensare tanto non ci posso fare niente, questo è il concetto. Anche se non è un fatalismo divino, no. Come ama, ce l'hai e te lo tieni, no, per fortuna si può fare qualcosa. Ecco, di questo parleremo naturalmente dopo le informazioni sul traffico. Ci sono delle persone, dottoressa Scarpellini, che scoprono di avere l'artrosi per caso, magari in seguito all'esecuzione di radiografie, no, fatte per altri motivi, spesso neanche collegate ai dolori articolari. Allora cosa bisogna fare in questi casi? È un'artrosi che sonnecchia e che si farà sentire nel tempo, o invece potrebbe continuare ad essere asintomatica? Nel frattempo anche i nostri ascoltatori ci mandano le loro ricette antidolore, c'è chi parla della glucosamina, c'è chi ci suggerisce i fanghi, oppure trattamenti fisioterapici, certo, come il nostro giovane fisioterapista che ci bacchetta perché ci dice: state parlando di mal di schiena, nessuno ancora ha nominato la fisioterapia, stiamo parlando di dolore, anche di dolore di schiena, ma abbiamo dedicato alla fisioterapia, peraltro importantissima, numerose puntate. Infatti, ci sono anche gli ascoltatori che chiedono naturalmente delucidazioni sugli antidolorifici da adottare, magari a seconda del tipo di problema specifico del quale si offre, per quanto si devono prendere, sono come di terapie tra virgolette perenni, durature per sempre. E che succede? Allora, dottoressa Scarpellini, dopo le informazioni sul traffico, dato che abbiamo un po' inquadrato il problema, cerchiamo di andare a suggerire ai nostri ascoltatori delle soluzioni. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Muovetevi anche voi. 800 24 00 24. Ultima parte della trasmissione, ultimi minuti per lamentarvi delle vostre ossa, articolazioni e muscoli insieme alla dottoressa Scarpellini. Abbiamo subito le nostre ascoltatrici. Tante donne che stanno chiedendo il nostro aiuto. E una ragione c'è. Perché c'è la dottoressa Scarpellini, quindi sentono la sponda femminile quindi si sentono più sicure. Anche per questo, dottoressa Scarpellini, ma anche perché noi donne siamo più doloranti. Assolutamente, il rapporto malattie reumatiche 5-1, sesso femminile verso quello maschile, purtroppo. Allora, vuole dare un aiuto sicuramente a Raffaella, però tre messaggi proprio mirati per le donne, le nostre amiche all'ascolto, dottoressa Scarpellini. Allora, io ho sentito prima varie cose, purtroppo pochi minuti, ma volevo accennare alle terapie perché sennò c'è molta confusione. Chiedono di antidolorifici, chiedono. Allora, il discorso è questo, che sempre in reumatologia e anche in artrosi il concetto di terapia è sempre fatto almeno a doppio binario. Vuol dire questo, che da una parte quello che il reumatologo vuole è la diagnosi precoce per riuscire ad arrestare negli anni l'evoluzione della malattia. Quindi se noi riusciamo usiamo non antidolorifici, il paziente ha poco male o ce l'ha per poco tempo, quindi questa è la prima risposta, non bisogna usare antidolorifici sempre perché non sono la cura continua importante dell'artrosi, sono la cura del dolore del momento. E poi attenzione, antidolorifici quali? Antidolorifici analgesici o antinfiammatori? Allora, se ho un'artrosi che non è in fase infiammatoria, antidolorifici puri o al limite un'associazione con oppioide, ma nel brevissimo periodo. Se invece c'è la quota infiammatoria, logicamente l'antinfiammatorio. Ma ritorno sul concetto importante, se io faccio una diagnosi precoce di artrosi, come in artrite, come dappertutto, io posso usare farmaci cosiddetti di fondo. Sono farmaci che lavorano nel lungo termine senza avere alcun effetto collaterale, quindi possono essere presi per anni, che lavorano nel proteggere la superficie cartilaginea, che a sua volta è la causa dell'usura dell'articolazione artrosica. ho sentito glucosamina può essere usata insieme al condroitinsolfato, insieme al collagene, insieme all'acido ialuronico. A questo proposito dico anche che c'è la possibilità per noi reumatologi di infiltrare, di inserire sostanze antidolorifiche o acido ialuronico nelle articolazioni più colpite, proprio per ridurre, per alleviare da una parte il dolore se molto acuto, svuotare l'articolazione che magari ha del liquido, analizzarlo e vedere se magari in associazione alle artrosi c'è l'artrite da cristalli, quale la gotta, quale la condrocalcinosi, che molto spesso sono associate, e quindi un altro concetto di associazione artrosi-artrite. E quindi queste sono poi una cosa molto importante, la familiarità, il sovrappeso, l'obesità, ovvio, non certo. Solo perché colpisce il mal di, cioè il mal di schiena, le gambe, è ovvio, è intuitivo pensare che l'obeso ha più male alle ginocchia, le anche se obeso, ma oggi si è visto e sono bellissimi studi nuovi che dimostrano che le cellule del grasso, le cosiddette adipochine, l'adip lo dice la parola, sì. Il grasso, contengono delle sostanze infiammatorie che quindi favoriscono il peggioramento dell'artrosi, anche per esempio della mano, che non è assolutamente un'articolazione legata al sovrappeso, quindi è molto molto importante. Poi l'attività fisica, mi ha chiesto attività fisica, sì, attività o no, fisica, perché quando si ha dolore sì, ma, sì. Con, sì, ma con quando giustamente lei dice quando c'è dolore mi fermo e mi curo, mi tolgo il dolore. Poi appena posso però cerco di mantenere in forma il mio apparato scheletrico, soprattutto i muscoli che sono intorno all'articolazione, ma non devo correre a Ferragosto sotto il sole delle una sull'asfalto rigido per almeno un'ora, questo non va bene, questo devo non va fare bene, una però camminata veloce, basta. Devo farmi magari dei massaggi, devo andare in piscina, devo nuotare, devo fare una massa fisioterapia, va benissimo. Il fango, ho sentito anche la domanda del fango, il fango sì quando non ho dolore però, perché se ho dolore scaldo un'articolazione che è già dolente, quindi non va bene. Caldo su caldo non va bene. Allora abbiamo veramente due minuti per rispondere a Raffaella e per rispondere a Serena dalla provincia di Lucca. Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Allora, a me è stata diagnosticata un'artrite reumatoide a 48 anni. Sì. Sta diventando veramente molto invalidante in questi giorni, sto camminando con le stampelle. Sì. Però a me è stata data solo una cura farmacologica con cortisone, antibatterico e quant'altro, antidolorifico. Per cui è necessario che io affianchi anche una terapia fisioterapica o ortopedica. Grazie. Non è stato consigliato. Grazie Raffaella. Andiamo subito a Serena dalla provincia di Lucca, così la dottoressa poi risponde entrambe. Serena. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, senta, io soffro tantissimo di dolori alle mani e ai gomiti. Non riesco proprio al mattino quando mi sveglio ad aprire quasi le mani e mi devo scaldare i gomiti per poter aprire le braccia. Ovviamente collo, spalle, la mattina mi fanno male fino al pomeriggio. Ecco. Io mi devo scaldare, mi ritengo diesel, no? Veramente una sofferenza. È una descrizione del dolore che la dottoressa Scarpellini ha fatto nel corso della trasmissione, da importanti informazioni al reumatologo. Per Raffaella con l'artrite reumatoide sarebbe giusto affiancare un trattamento fisioterapico o di riabilitazione? Sì, però mi permetto di dire fisioterapico, per la carità, mi spiace molto che sia con le stampelle. Per me una storia di un'artrite reumatoide nel 2015 così è veramente devastante, perché la ritengo storia della reumatologia. E l'errore l'ho visto, l'errore è stato senz'altro la terapia a lungo che tuttora mi dice con cortisone e antibatterici, non è questo il punto, la signora probabilmente non ha fatto tutte le terapie di fondo tipo metotrexate o farmaci biologici che oggi sono a disposizione. Quindi il primo appello che può, io faccio alla signora, sì, per salvare il salvabile, se si può, perché io non ho idea del quadro radiologico, ma di tentare di vedere con un bravo reumatologo della sua zona di partire finalmente con la terapia di fondo di cui parlavo, perché senza dottoressa quella sarà sempre peggio. Ok, questo è il messaggio per Serena invece dalla provincia di Lucca, abbiamo per Serena, 30 secondi. Per Serena credo che siccome dura molto potrebbe avere anche lei un'artrite, però deve fare almeno un minimo di esami di laboratorio o un'ecografia delle articolazioni più infiammate per vedere veramente se si tratta di un'artrite, perché dice che la rigidità è molto lunga nella giornata, è possibile. Quindi, dottoressa Scarpellini, non riusciamo a dare risposta a tutte le nostre ascoltatrici che si sono messe in contatto con noi, cuore denari, come diciamo, con Deborah. Aperta anche nel pomeriggio. Aperta, scriveteci. Mm. Intanto abbiamo anche Simonetta esatto, da Brescia. Dov'è che faceva molto freddo? Simonetta? No, eccoci. Sì, Simonetta, dov'è che faceva molto freddo? Antartide 93,2. Perfetto. Sotto zero. A me già dà fastidio questi 6-7 gradi di Milano, figurati stare là. Allora, complimenti a Simonetta, grazie. Complimenti alla dottoressa Scarpellini che ci ha aiutato a vederci più chiaro. Dottoressa Scarpellini, alla prossima. Grazie, grazie mille. Buona giornata. Invito. Buona giornata. Noi torniamo domani, cara mia, siamo sempre qua puntualissime, domattina dalle 10:30 a tutti. Buona giornata.